Chi è? Chi è? Chi è là? E beh. E allora? Si sente? Va bene, già va bene. In cucina, in camera tua. In camera mia sono. In camera tua? Eia. Ah, ho capito. Ascolta, ma ti ascolto basta, ma già va bene lo stesso. Già va bene. Tutto era quella cosa là, Antone, che non prendeva. Ho capito quella cosa là? Ho detto che era quell'antenna che non faceva bene contatto. Ancora l'ho riparata comunque, io non ho detto che era questa sera. Vabbè, adesso quando ho 5 minuti di tempo già vengo a prendermela, e ti ritorno la tua. Non riesci a farla accendere. Senz'altro deve essere qualche filo al contrario. Ho capito, già va bene. E beh, cosa cazzo hai combinato stamattina? Niente. Ho salito su questo alle 2:30 di qua a casa, poi è arrivato Daniele, mi ha portato le chiavi e poi mi sono messo a fare la tela tua, come si chiama, dopodiché sono arrivato molto tardi, poi mi sono messo il PMR per provare se tipo qualcuno, perché qualcuno gli altri ogni tanto non sempre, ma non ti ascolta. Ho capito, vabbè, io sto aspettando, facendo ora per andare lì in quella struttura là stasera alle 5, dobbiamo andare a trovare quella vecchia, hai capito? Sì, ho capito, quindi deve andare a pensare stasera. Già mi porto presso il PMR, poi se qualcuno già risponde, se no già la prende in quel posto. E va bene, alle 5 noi andiamo lì, e poi un'oretta, poi torniamo a casa, hai capito? Di fa compagnia, no, non è che è compagnia, di fa, perché io rimango qua, non mi fa entrare quella antica casa acida. Del coso, quella cosa dell'edicola, dei giornali, cazzo, non è, gli ho chiesto per una volta, gli ho chiesto il giornale, cazzo, no, quelli non sono a leggere per le persone, sono, si devono vendere lì, hai capito, si vendono. Grazie. decrepito, non è meglio la calma mortuaria. Guarda se mi senti adesso, Antonello. Mi senti qua adesso? Non posso, non è stato sentito. Non posso, perché sento, arriva anche di nuovo. No, perché sono uscito pure dal terrazzino, hai capito? Dall'altra parte però, la parte del monte. Non lo so perché, non ho capito perché, cazzo. Dall'altra parte, cazzo, sento bene. Qua, cazzo, la parte del monte, cazzo sento più basso, non ho capito perché. È zona negativa qua. C'è freddo, iniziano normalmente cazzo questo cazzo di venticello freddo, cazzo, che ti entra nelle ossa, cazzo. E a me mi fa male la gamba, cazzo, non posso muovere, stavo camminando zoppo. Già, esci, me ne ero dentro, cazzo, non c'è mai, cazzo. Cazzo, dentro c'è più caldo, qua, cazzo, da cagarsi sotto. Ho detto che qua nel terrazzino è da cagarsi sotto, dentro al caldo ci sta meglio. È la cosa, eh. Tanto adesso dopo metto le scarpe e mi preparo, perché tanto verso le 5:15, 5:10 usciremo da qua, capito? Ciucchi ciu, ciucchi ciu. Dica. Qui lei è un freddo da cagarsi sotto. Questo sei arrivato basso. Sono in camera. Sono in camera, hai capito? Come? Sono in camera. Ah, sei in camera, sì, adesso. Sono in camera, seduto nel letto. Io ando a far caldo. Guarda che io quando esci che pezzi prendi il riscaldamento da qui. Vediamo. Vabbè dai, ci sentiamo dopo, dai, ok? Avanti, chi c'è? Attento, Antonello, ci sei? Antonello, ci sei? Antonello? Attenzione, c'è qualcuno in questo canale? Cambio. Chi c'è? Sì, avanti, fischio. Bubu. Hola. Morto, Ciao Antonio. Bene, mi senti? Sento bene, mi senti? Ecco. Papà, non l'avevi piazzata l'antenna, perché? Ecco. Sì, perché non l'avevi capito che ero io. Ehi, vabbè, però se è ancora andata bene, io non vado da nessuna parte, dai. L'importante è fargli le ancorature come si deve. Allora non li hai stretti bene i bolloni di sotto, delle staffe. Se si gira questa cosa, devi stare attento, devi stare. Se tu non li stringi, se li stringi non glielo va da nessuna parte. Anche se, vabbè, la direttiva è un po'... Cos'è? Quanto è lunga la direttiva? Capo. Sì, vabbè, però se stretta bene, fatta bene, non dovrebbe andare da nessuna parte. È ovvio, certo che con la direttiva, se è appena appena mollata, gira, quella gira. Vabbè, ti fa la rotore, ti fa. Capo. Ma quello del coso gira a 45, gira a 45 gradi. Fa 45 da una parte e 45 dall'altra, è poco, capo. Vabbè, ma se tu per dire ti gira sui 45 e ti gira tra Sorso, Alghero e Porto Torres e non ti gira verso Usilo, perciò se tu la devi girare a Usilo non la puoi girare, devi lavorare di coda, capo. Ma da poco ne ho visto su internet, ne ho visto uno, ma non qua, dalla Germania, in Germania. È un rotore quei buoni, quei professionali, quelli che costano 400, 500, 600 euro, quello lì. Era un po' vecchiotto, però funzionante, 150 euro lo stava dando quello. Sì, quelli sono buoni, quelli portano anche peso, portano, quelle sono micidiali, già si rompono anche quelli, però quando hanno cosa leggera sopra no, già durano. Capo, ma mai stasera non c'è nessuno qua, tutto in giro io. Come dai Brasile, i brasiliani ci hanno buttato fuori anche Giuseppe, ma io li sento parlare, i brasiliani con l'Italia, eppure sono tranquilli. Bastano entrarci con loro ed entri in Italia e gasano tutti. Ma io non lo sto neanche più accendendo quello lì, non lo sto. Chissà che lo cancello e buonanotte, tanto. Ho notato che i siciliani si hanno fatto la ruota loro, e quelli si fanno la ruota loro. Come entri e dici qualcosa, sono 10, 12, sono, come dice uno, blacklist, ti mettono anche loro in blacklist. E allora intervengono e ti bloccano la cosa. Ma infatti io non sto neanche entrando, non stavo neanche entrando. Adesso sto per cancellarlo, intanto è un coso che ha fatto la Midland per una cazzata che ha fatto, dai, non risolve un caso così. Scusa un attimo, guardate che mi hanno suonato la porta. Ok. Giuseppe, non ce l'ha questa la frequenza? Non ho capito, sei uscito a tratti. Capo, no, ti stavo dicendo, Giuseppe questa frequenza ce l'ha? Dal PMR. Capo, ma ti sei spostato, ti sei? Perché cominciano ad ascoltarti. Capo, adesso sei uscito bene, poco fa tutto a tratti, tutto, mentre stavi parlando, tutto a tratti. Ma adesso stava andando bene, va bene. E allora? E come cavolo ha fatto a fare una cosa così? Si sono cancellati i nomi e i numeri sono rimasti. Vabbè. Oh, capita, non è che... Era incoglionito come intero zio. A mia coppiata, sì. Fra, mi senti? A voi già ti sento. Ciao Claudia, buonasera. Se ricoglionito davanti, arredda il Zulia, buona sarà. Lo so. No vabbè, sono davanti a te, quindi già mi senti. Caro Antonello, si invecchia e si diventa rincoglioniti. Vabbè, quelli possono essere anche pensieri, però si diventa, purtroppo si diventa. Uscire. Sì, sono ancora qua, Ofra, ferito poco fa di imbustare un po' di erba, un po' di foglie, che domani passano a prendersi. E quindi sono qua. Arrivi molto bene. Arrivi bene. Vabbè, questa zona è altissima, perciò. Avanti, bra. Capo, li ascolterai bene anche lì a Monte Oro? Sì, qua sono a Monte Oro. Ah, lì sì? Allora già va bene. Sono passato stamattina lì, ho fatto ero a Tutubella e ho fatto quella strada e già ero un anno e non la facevo più. E vabbè, tu hai fatto quella della Bosazza, io sono dall'altra parte, sono dove c'è il ripetitore grande, quello grande grande, quello mezzo in cemento, mezzo traliciato rosso e bianco, sono lì. Va bene, no, adesso solo questa qua, ecco già, solo questa c'è, VEU, una delle basi, dai, quella che avevo mandato la foto a te, avevo messo qua, le altre due basi le tengo ancora a Sassari, poi vediamo se riesce a bugarsi tutto. Ecco, sì, ma l'entrata ce l'hai sempre da lì, ce l'hai, da quella strada. Io entro da sotto, dove c'è il campo sportivo. Praticamente vado avanti dove c'è Colombano, poi giro a destra e faccio quel pezzettino da circolazione e salgo. Ah, ho capito adesso, io pensavo che eri prima, che eri proprio dove c'è l'entrata lì, Monte Oro. No, lì ci abita Vittorio, lì abitava Antonio Monte Oro, l'animatore. Adesso non ci abita più. Sì, ho capito dove c'è quel ristorante, pizzeria. No, no, no. Io non entro da lì. Dalla Landrica stai dicendo. No, no. Io entro dall'altra parte, dalla parte bassa e poi salgo. C'è una strada interna. Ecco, sì. Sì, Antonio Monteoro già l'avevo conosciuto. Me lo ricordo quando modulava. L'ho conosciuto CB. Sì, non ci abita più lì, adesso abita ad Alghero. Sì, quella dalla Landrica, no, io sono da sotto, sono molto più vicino. Ehi, sono qua due bassi, io da Bredanieda, lo già. Più poco, mio Dio, più da qua andare all'Aerospin, che c'è in via Verona, che è da Monte Oro andare all'Aerospin di Bredanieda, figurati tu. Ehi, capo. Vabbè, meglio così. Avanti, Antone. Vedete la mia di Sassari, ce ne sono due qua disabili. Col giardino che c'è, e due ettari di terreno. Escono sempre, tutti i giorni, sono gli ascensori per i disabili, c'è tutto qua. C'è un'organizzazione, veramente. Veramente si sta benissimo a Sassari, per Monazzi. Finitene qua, Antone, ti lascio anche le antenne. Anche le antenne ti lascio a Sassari, tutto ti lascio, le radio no, ma le antenne già te le lascio, dai, tutto, non sto scherzando, se vieni tu ti lascio anche le direttive, tutto. Mi va ridito, cioè vuoi vedere che due appartamenti tu e andartene via Pietronini, ci avete mio cognato lì attaccato a Pugioni, infatti c'è fratello di mia moglie, 600.000 euro costa quella casa. Lì sono da 400 a 600, anche a 700.000 euro le case, ma stai scherzando, lascia perdere. Tu puoi trovare un'altra piccolina in campagna con quei soldi di Antone. No, io sono già in vendita, già l'anno scorso, però sto tentennando, infatti molte volte salto gli appuntamenti perché non ci sono, però... compreso di posto auto e tutto, senza la mansarda, no, me la tengo, 120.000 euro, di più non si può dare, giusto per recuperare un po' di soldi, e poi se vuoi mi ti do quella di Viale San Francesco, la metà, perché la metà è già stata venduta, però ascensore non venne chi, per il di Biani Appesi, vabbè sono tre piani, quella già ti basta per te, già va bene. Avanti Fra, se no mi tenete al socio da Franco, vicino a Franco, no, a voi Fra Antonello. Ma non mi vale nulla, a me messene una in vendita in oggi a fianco. Ma quale devi vendere la casa? Quella dove sei tu o quella dove c'è Giovanna? Lo scivi fuori di Luca Bappare tutti e due. bifamiliare costa, che quella di Monte Oro è bifamiliare. Ma costano un bel di dinero. Te ci vai fra, due antenne piazzami, riuscisci a chiudere a pari. Senta manca che c'è il microfono, si intende in... a pari, si chiude a pari. Ecco, e ora ne vai FM500S, ormai è tramontato. E cosa vuoi? Capito? In una casa le buone due, due antenne vicino, gli arabici buona, ah claro. Vai, non si può fare, ma stai scherzando. Roba di dibattimento, di rientro di radiofrequenza. Lui, lascia verde. Io qua non metto niente. Non vuol dire niente. Mi sto facendo manutenzione alla controbox, Andrea. Appena terminato dice che viene e dobbiamo abbassare il sistema perché deve fare manutenzione alla, al rotore. La Giuditto Vizio ci vende manutenzione, non facciamo più nuda. Tienimi tutto basso, io mi smonto tutto, mi conservo tutto, faccio pulizia. E non monto niente qua, l'ulta, c'è una X300 e basta per il momento. E buh, ci massa a capo, metterò qualche, forse un dipolo quello che ho a Sassari, 20 e 40, e buh. E basta, ma che sia bello nascosto, però che non si vede, no? Oggi va armata Brancaleone, ma non tenate, non metto più niente, fra, già devo dire più niente, boh, finito. Vabbè, ma una 510 la potresti anche mettere, cosa entra? Per voi, quella lì è sacrosanta, dai, al posto di quella X300, la 510 è molto migliore. Sì, poi però c'ho anche la X7000, non ce n'è problema, ma immaginate che da qua arrivo in diretta a Ostiri, cosa della metalista, parlo con tutti voi, già va benissimo, e anche col dipolo sicuramente, vuole montato bene. Messo un invertito da qualche parte, lo metto a polarizzazione orizzontale, come qua, come qua, come montato a sasse, e basta. No, non metto direttive, lascia perdere, agitro mio, ventare dove è che vi sopra, peggio dei disastri, no, pucci, e poi l'attività non ne faccio, devo stare per fare che cosa. Come mi c'è... Chiamato no, comunque c'è qualche problema, infatti lo deve vedere Andrea, però dobbiamo abbassare tutto, proprio perché non ho, in 3 anni che io ho le direttive sul tetto, no, le avrò usate 3-4 volte, quindi cosa me ne affitti, ne faccio più attività, non mi interessa, la mia attività è mi 3x9, due chiacchiere qua quando c'è qualcuno e poi mi interessano le V e le U, sono i ponti, sto lì, chiacchiero, eccetera, eccetera, boh, finito fra. Ehi, vabbè, mi era sempre bello averlo anche, vabbè, se c'hai quelle antenne che hai detto, quelle verticali, già puoi ascoltare anche 40 metri da tutte le parti. Oh, non c'è la piazza, di Poli piazza, ma io sono stato 15 anni con i Poli e ho girato tutta l'Europa, non è un problema, quando schiaccio già mi sentono, sì. E poi già c'è Gigio, c'è 1,5 kW io. Ho già maggior amplificatore di Agibiliato Avannino, FL7100, quindi non è un problema quello della Yaesu. Non è un problema. No, direttive non è molto più, fra. Non è molto perché tanto non le uso, non mi interessa. Non faccio attività ad avere direttive a quei livelli e lasciarle lì. Cazzo, c'ho 3.000 euro sopra il tetto mio, o fra. Ci rimane di la salsedine. No. Appena si libera lei, sta finendo il lavoro, ne scendo tutto, conservo tutto, ho le scatole, ci porto tutto in campagna, e c'è una baracca fatta apposta per mettere le cose, ci metto tutto lì dentro, boh, finito, e basta. E lavoro, mi faccio sentire, stasera non ero in 40 metri. Ero in 40 metri, c'è un pezzo di filo, arrivavo benissimo. Quello devo toglierlo, però mettere quella che c'è a Sassari, quella 15, 20 e 40, o a voglia ti diverti. E poi le vuole, quelle sono sacrosante. Quelle sì, per quello ti ho detto poco fa, cazzo, da lì una signora antenna ci vuole, non dico direttiva, ma almeno in verticale ci vuole. Sì, c'ho la 510 anche, non è un problema. C'è la X300, ma è a 2 metri da terra, amico, già pensi. Solo che nel lato opposto, quindi sono davanti a te. sono 10 metri in capo, via Camille. Però già, adesso non sto pensando, Nagio così mi fa ancora, bra, lascia aperto, non si finisce mai. Però sono già d'accordo con mia moglie, vendo o non vendo, io quest'anno me ne voglio andare da Sassari. 48.000 euro per fare solo i poggioli stiamo spendendo. 2 mesi per l'autoscala a vista, 2 mesi, 48.000 euro. La gente che andava a fare i facciati, poi lascia perdere. Condominio grandissimo il mio, no? Bellissimo ma grandissimo, molte spese. Perciò lì sono a tasso zero, non ci paga nulla. Me ne sto sereno, tranquillo e con le chiappe in acqua anche mi fa di tira. Avanti Antonè. Ah, lascia perdere, ma gli vorrà di mattone con il telefonino, Antonè. Ma non mi interessa niente, neanche quello a me. A me non mi interessa, già io ascolto, non ti preoccupare. Noi ci abbiamo anche la parte digitale, io sto riorganizzando tutto, però ho già smontato una base, perché le basi che ha fatto Giulio erano 2L, una ho già smontata, portata via, ho messo le altre 2 piedi perché era agganciata all'altro con la piastra di ferro sotto, quindi ho già preso altre 2 piedi, da 2,20 m, fatelo conto, e lì mi faccio tutta la sezione nuova, tutte le cose che mi servono. Già si può fare tutto quello che si vuole, ci vuole voglia, passione di là. Siccome in questo momento sto facendo altro con i soldi, non so come c'è dare il radio. E quindi, e poi ti ripeto, l'animatore, questo gruppo telefonino c'è buono e fa vedere, ma attennati, con tutto il radio che ho, è buon gruppo più il telefonino. Già mi sistemo, sì. Ci ho messo un anno a fare la sala radio qua. Già me la faccio anche là, fatta bene. Già venne il logo. Ma un bel posto, non poco. Ehi, da giusto che ognuno fa quello che le piace, io vado avanti per la mia strada, Lucia e Fra. E poco in te qui, Antonello, a voi in te, non si comprende cosa dice. Ehi, ha detto che sono tutti l'applicazione, a me l'applicazione mi tradisce. Ognuno Antonio è libero di fare quello che vuole, con la roba sua, con i soldi suoi, io vado avanti per la mia strada. Sono andato troppo avanti con quello che dicevano gli altri, adesso vado avanti per la mia strada e faccio ciò che ho voglia di fare, quello che non mi piace lo lascio fare agli altri, magari si affutti l'applicazione, io stavo col telefono in mano a girarmi le balle. Andiamo del radio Antonio. Devo sciare, devo del radio. Soprattutto la parte digitale che è ferma ancora. Manco Ducata, figurati tu. Mi sistemo tutto come deve essere sistemato, come era ordinato prima, sarà ordinato dopo. E decido cosa fare. Non mi bocco l'applicazione, non ce la giù applicare. Vai, finila, vai. Lascia perdere. Adesso ti ascolto un po' meglio. Ti ascolto da poco fa. Più grossetta la modulazione, però almeno a quanto quelle due parole erano buone. Ma sai cos'è, Antonello? Che a momenti, mentre parli, si azzittisce perché manca proprio la modulazione, ti manca, capito? Poi un po' lo riprende, è buono, non lo so. Perché vedi, Claudio passa un bel radio, passa, e si riaccende uno o due led, si riaccende, mi accende, però sono fissi e parla sempre fisso, mentre tu non hai segnale, niente, zero, e ogni tanto vai a mancare di modulazione. Lì è meglio toglierla perché non va bene. Anche io all'inizio, quando ho comprato l'antenna, l'ho messa lì, l'ho messa sotto e non va. Almeno da me non va. Poi se uno riesce a farla andare, non lo so. Avanti, Cla. Ma ancora stai trasmettendo con quel veicolare quadribacco. Questa è una bella radio. Strano, No, io sono fra con quello grande. Ho detto, ne ho tre basi, una l'ho portata via. Sono tre. Due dual band e l'altra monobanda. 275H, quella da 100 watt. Ma anche questa è da 100 watt. Io la tengo a 5. Ma già va bene. Ecco, ma io da base ne stavo cercando uno, poi non l'ho mai trovato. Già, cioè, se ne volevo già ne trovavo, però era a comprare al buio, da fuori. Ah, io te l'ho proposta, però fra quel prezzo che la volevi tu non ce l'avevo io. Capito? Non ce l'avevo, ne ho venduto una della Icon base, doppio display, fantastica, enorme, normale, quanto è un 140, quanto è un 440, così, quella misura lì, perché l'altra che ho è un bestione, 780 già l'hai vista, è un bel grande, quella 220, ma questa è, ad esempio, l'820H, quanto è un 140, capito? E funziona molto bene, però questa non la trovi meno di 500 euro, usata non la trovi meno di 500 euro. Ecco, lo so che si trovano quel prezzo lì più o meno, quelle che trovi di meno sono, sì, è VU lo stesso, però cioè vai a fidarti a pigliarla. No, la bugia di gioco, queste, se te la danno che non funziona, vivono di andare a ripararla, stai scherzando. Sono molto delicate, sono radio amatoriali, non fa, non lo so neanche se la trovi questa a 5, forse a 600 la trovi, e questa è una delle ultime che aveva fatto la Icon. Una delle ultime, l'altra 910H la trovi a 900 euro usata, che costa 1300 mi sembra, nuova, a 900, 950, 800, dipende, chi se ne vuole disfare la svende, però il prezzo è quello, però è una bellissima radio, però ogni display gliela evita, gliela avvolta, a colori verde il display, grande. Come il 756, da quei display di Ciano, come il 7004. Va bene. Ma oggi arrivai, bra. Ma poi ascolta, ti ho detto, tu quando devi fare quella spesa, devi avere quella roba là. E sono sicuro che ce la fai, tranquillo. Quindi, poniti in capo di bigliattira, tira bigli, e allora... Allora puoi affrontare qualsiasi spesa, fra. Ma prendere una radio del genere, baffavi da dove? In PMR? Ma lascia aperto. Vabbè, per parlare solo lì, solo qua, ma se avanza chissà. Ma infatti quello che fa quella lì lo fa lo stesso l'altra, non è che... Hai capito? Devi ascoltare i ponti, devi ascoltare PMR, devi ascoltare le battute. Un veicolare fa la stessa cosa, fra. E per noi radioamatori è importante perché le radio base hanno le bande laterali, capito? Quindi noi usando anche le bande laterali è chiaro che siamo forniti di basi VHF e UHF, io ce le ho tutte e quattro basi, tutte e quattro con le bande laterali perché servono, capito? Tutte e quattro. Il mostro è 275H, quello c'ha 120 watt di potenza in VHF, banda laterale, 100 watt in FM, quello è un demonio, quello non si tocca. O comunque anche questa mi soddisfa, l'820H, la radio, doppio display, tutto, puoi cambiare una parte all'altra, c'è cioè il sistema satellitare, bande laterali, tutto, 100 memorie, no, è bella, e va bene. Anche quella di Antonello è bellina, come veicolare, con un veicolare quadribanda, non è ingombrante, è piccolo, però è una bella radio. 8, cos'è quello Antonello? 8, 5, 7. No, mi sembra di no. Adesso ho cambiato antenna. Come mi ascolti adesso? E qua c'è sempre fondo scala. Da coso, da Franco non lo so. No, mi senti? Oh, adesso non lo sento per niente. Ah, ma non ti intende bannuda. No, qua è abbassato, Antonè. Da fondo scala come di prima, adesso sei 9.20. È l'X30, sai che vi attacco l'altro. Ah, partita s'antenna. Ah, cosa ha cambiato, antenna? Lei ha messo l'X30, poi. Quando cambio l'antenna tiro la 510 attorno, ti piazza la 510. A Roma cos'è che ti intendi? Ehi, da Santo Bastiano intendimmo, che la rissa. Sei uno, piazza chissà. Oh, per ricevi, con quella là. Anzi, mi sono sbagliato, non San Sebastiano. A bancare do candà. Infatti te lo correggendo, bravo. San Sebastiano non c'è più. Adesso c'è bancari. Oh, io qua faccio venerdì, sabato e domenica. E forse la riga ha fatto oggi. Ho mangiato la gente, gioco in piedi. E viene un amico a portare tutta la siepe a farla quadrata. Là. Io oggi ho provato e devo vendere rotonda invece va la quadrata. Là. Perché se tu ti prendi quei così apposta che compri, i seghetti apposta, ma no a mano, no, di chi sia motore. Vai a vedere, dici, vedi a vedere, dici, quadrata, dici. Non ce l'ho io quella, infatti ce l'ha lui domani mattina. Io la stavo facendo a forbice, quella grande, ma stavo facendo una cagata. Domani viene lui e la fa lui. Però nel compenso ho ritirato tutta gli aghi di pino, foglie, tutto, pulito tutto. Ho già iniziato a pulire il telone della piscina. Se vera 50 cm d'eva, un altro telone. C'ho la pompa dentro, ho aspirato tutto. Così asciuga. A chi? Allora mi si entra, come sta scoperchiato. Allora mi si entra. Luia. Speriamo che sia così. Ma mi pare che stanno dura che lo freddo. Fra l'anno scorso ad aprile era già alla dei Caraibi. Capito? Se piove non fa niente. Assolutamente. Una volta c'è il motore in azione. Vediamo. E poi devo finire il cancello, il verniciare, le due porte esterne del piazzale che vanno nella tavernetta e boom, il palisciano giù fatto. Oh, ma la rivenzio deve cominciare, due piante pomata, due di zucchi, due di riso, due di grasso. Guarda che mangiare pomodori fatti da te, è tutto un altro sapore. Fra, c'era il mio vicino l'anno scorso, mi ha cuvaccato, mi pare nasce 100 bianchi, salgo di mi ha cuvaccato, alla fine del tasco non me ne dare più, ne stavo anche regalando, tutte, pomodori, ma pomodori l'ho mangiato l'anno scorso, sì, no, non è pianto io, fra, non pianto niente, non pensare che il terreno ce n'è poco sopra nella parte alta c'è un pezzo di terreno, c'è un po' di alberi di olive e un po' di alberi di frutta, basta. No, fra, diventa un lavoro. Io ho sempre dichiarato che la campagna era pulito a cemento e così era mia. Vabbè, non è che ci vuole tanto terreno per fare, bastano 100 metri quadri, bastano, ma fatti, ma piantati due gosariti. Guarda, in quel pezzo che stai dicendo tu, che sì, sarà così, saranno 500 metri, mia, sopra in alto, lì metto tutto virale di vava, a me piacciono molto le favette fresche, poi vabbè, prezzemolo c'è già, basilico, le cose così, capito, però altre cose no, lascia verdere, medio nulla, allora vai, dici va per riposare, non per lavorare, una volta tutto pulito, E ti dico che era pulito, pulito, ma veramente pulito, quell'imbecio che ha fatto, che si chiama Estra Radda, che si aggoscia, infatti tutti quelli apocalittici, si chiamano, veci, avevo chiesto alla forestale, me li ha fatti tagliare, adesso è tutto bello pulito, gli alberi di pino sono tutti portati, tutti puliti, pigne non ce n'è, però quando fa molto vento ne scendono gli aghi nel piazzale, capito? Stamane gli ho caricato quattro bustoni e basta, quella è la pulizia che devo fare io, per il resto a zappare. Ah, Antonello mi anda a zappare. No, lascia perdere. Fate a voglia, vedi Fialetto, due fiori, mi fiori stati bancari. Anda, beh Giovannino Fiori, chi vero Giarù, Dio Fiore non ci pianta, giù sta a rompimi le balle, tu gli arrivi a fiare i fiori. va bene, per i fiori ci pensano le donne, non hai bisogno di messarvi l'omene. Ehi, è vero vicino che vado i grabbi, certo che fa entrare i grabbi, ne posso mangiare i fiori, i rosi. Abitua Giarù, hai strazzato. Ma ho visto una cosa, un giorno mi sono spaventato. È proprio lì dal vicino, c'ha due capre, e le tiene, vabbè c'ha un bel recinto, queste due capre, le galline, è molto bello, però è una fattoria, molto ordinata, è bellissima. Ha lasciato la cancelletta a becco, perché è andato a prendere il coso dell'acqua, la pompa dell'acqua per riempirli dove bevono. Se ci grabbi, cazzo, per un filare di rose, ma belle veramente nel vialetto, un filare, ma sono stati decimetri. Me ne sono accorto, quando sono stato a prenderli a voci, si avevano mangiato tutte le rose, ma fra i pina e tutti ci mangiano, Cavolo! Però ho te raggio bene a Pudà. No, ma hai detto qua, stai tranquillo che non arrivano a Natale, hai detto ci tocca i grabbi, guai, peggio per te che hai lasciato il cancelletto aperto. C'è un recinto proprio a tipo un ranch, no? E loro stanno lì dentro, corrono, fanno, un grandetto anche, col cancelletto in legno, bellino. E sì, dove c'è Bonino Bassante, lo cancelletto l'ha lasciato a Bello. Io ero dall'altra parte del muretto, ho detto già vado le cappe, sono battuti, in 5 minuti ci hanno mangiato un filare di rosi. Ocra, tutto bello, c'è un amico che ce li ha, no, le capre, ne ha una quindicina, ne ha. C'ha le pecore più le capre. Questo qua c'ha un pezzo di terreno dove c'ha un piccolo oliveto, c'ha. Oh, una pianta di riva, l'ane disintegrata, l'ane, e pongono le piante. La cottenna proprio del legno si mangiava. I pozzelosi. Oh, ma lui stava dicendo che piacciono molto i fiori dolci come le rose, no? Ci mangiano prima tutta la rosa intera, a mosciuruno, e poi come se ne va a mangiarsi tutto l'uro, gambo quello morbido, che seguro i pini, passa via, mamma mia, sono grandi, sono belle, sono anche belle perché sono curiose. Poi come ti intendi il rumore, subito si avvicinano al coso, poi sentono la macchina, si avvicinano al recinto. Però è abbigliata a Bonaci, infatti, mi pare che un mese che non lo fa vedere la moglie. va bene, uno che fa la budadura a base. No, già sono belle, veramente belle da avere. Però ci vuole il posto per loro, a parte che loro in terra soffrono, loro stanno bene in montagna, sulle rocce. Sulle montagne anche i freddari, dove è almeno 2 gradi a stare lì. Cazzo c'è un freddo fra. Ma tu perché pensi che noi ci andiamo ancora per il fine settimana solo? Perché c'è troppo freddo? C'è freddo, capito? C'è il fotovoltaico ma non sta caricando perché mi un po' ho già caricato. Ma le giornate sono troppo brutte, capito? Quindi, invece lui ci abita sempre, ci abita già da un bel po' di anni. c'ho l'impianto di riscaldamento con la caldaia, eccetera. Io non ne ho di quella roba, sono fotovoltaico. Capito? Ma sto dicendo che è una goccia allucinante, l'avevo mai vista. No, ma stanno bene. C'è questo recinto, tutto bello recintato, altro 2 metri, col cancelletto in legno per entrare, fare pulizia, eccetera. E poi loro hanno una di quelle, di quei prefabbricati non molto grande, dai. Quelle case prefabbricate in legno sempre per l'estetica, no? Che è da un bel pignolo. E loro stanno lì dentro la notte. Dentro è tutto pieno di fieno, loro sicuri che hanno capito, c'hanno il coso dell'acqua dentro, fuori, no, e c'è meglio vedi che Filippo. Perché loro, quelli devono, la notte devono rientrare per forza, ci vuole un posto per andare a dormire la notte, non è come le capre che lasciano come alla parte del Nuorese, lì, Ulbia, e li ho visti tutti nelle montagne, la sera rimangono lì, la notte rimangono lì in giro, capito? Invece, certo, uno che ce l'ha così, se le mette, gli fa anche il posto per dormire, gli fa tutto, capita? Dice, il recinto 2 metri, e tu non ve lo va a 2 metri, e poi uno blinca nemmi. E mi saltano e poi sotto, infatti i paletti sono molto giù, appoggiati a terra, no? E la rete è quella grossa, non è rete a maglia fine, è rete a maglia grossa, ben fatta, con poi c'è il muretto anche, oh, ben fatto, ben fatto. Oh, sti domestiche, tu li vedi, sono sempre netti netti, stanno sempre in mezzo al fieno, la mattina lui le... sopra, siccome c'è un campo, dice, ebba, tutta andata. E lui va, con la valcetta, la mette dentro i sacchi, l'erba fresca, gliela porta, tu devi vedere, ma guarda che non ti mangiani. Ciao Pippo, non ti ho chiamato io. Quasi c'è tutto dentro, cazzo vuoi, devi venire, un raffreddore devi venire. Boh, ma non mi devi andare di menea, e vieni giù te non che rompermi le balle. Ecco, ti volevo dire, e chi le munge? Lui le munge. Ma poca roba, poca roba. Ai bambini dice che glielo dà, cosa, poca roba fanno. Non sono neanche grandi grandi, boh. Ora non paggio danno questi crabbi. Sì, cavolo, un paggio danni sono già crabbi, non sono minori, dati nei urati, dati. Sì, già lo fa, lui anche me l'ha fatto anche assaggiare a me. Io non ci prendo differenza dal latte di pecora. Già lo fa. Ogni tanto, quando da poco ha fatto un dolce con il latte di crabba, la moglie. Un dolce. Così, ma e poi fa qualche cosa, insomma, però è poca roba. Cosa pensi di ciò che è sempre mugnante dei grabbi? Boh, è una grabba edo, Avanti, Antone. Ti succede cosa brutta a Nuoro, non è Sassari, no? A Nuoro, non è Sassari, se ve ne era uno incazzato a letto, un amico, mia montagna, mio cristiano. 25 anni, su 2 metri, poi 1,50 avrà, ha pigliato il rubidone, da 50 litri è caduto a terra, madre de Dios. Già l'ho visto. Oh, scusate che mi è arrivato gente, mi ha chiamato mia moglie. Vediamo un po', dai, se posso rientrare dopo. Ciao. Ehi, Afra, intanto fra un po' mi adesso preparo a Papa Pippo, che è sempre dentro. C'è un bel di umidità, se lo faccio uscire fuori e poi vediamo cosa devo fare, se dobbiamo arrostire, se c'è gente, non c'è nessuno, non lo so, vabbè. Dai Antonio, ti saluto, grazie delle 2 chiacchiere, che mi sistemo il cane, vado ancora a mangiare, ok, perché qua lui mangia anche la sera, si esce da solo e si fa i bisogni da solo. Ci sentiamo. Ok, ci aggiorniamo, dai, saluto anche a Franco, ciao. Ehi, vedi se va a dire che sono qua. Ciao a tutti, anche quelli che stanno ascoltando, ciao.